change my life and I just wanna relax. Trying to change my life when I just want to relax. Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire ai nostri ospiti, Noise Machine. Allora, sono 98.6 per la bassa veronese e zone della Lessinia e 101.5 per Verona città e rimanente provincia, 91.5 per la zona dei Lago di Garda e 94.7 per la Valpolicella. Ricordiamo anche che Radio RCS si può ascoltare anche in web streaming dal sito www.radiorcs.it. Ci assumi? Sì, perché dobbiamo chiedere al nostro editore. E dall'hard rock dei 70s passiamo al decennio successivo con la New Wave of British Heavy Metal e band più o meno note di quel periodo. Siamo partiti con i Raven, band dei fratelli Mark e John Gallagher, che dal disco Rock Until You Drop del 1981 ci hanno fatto ascoltare la canzone Don't Need Your Money. Ne parlavamo anche prima, un'altra di quelle band che meriterebbero una riscoperta musicale anche in virtù di un sound di cui molte band oggi sono debitrici. Che ne dite? No. No, tu dici di no. Sto scherzando, no, era la risposta bastarda. Vabbè, no, capito. Devo ammettere che anche i Raven non è che li conoscevo veramente bene. Avevo sentito due o tre pezzi, ma stamattina mi sono documentato bene. E devo dire che anche loro erano un vero power trio, in particolare cantante e bassista, visto che io sono... Ecco. Mi piace. Quindi vuoi far diventare i Noise Machine un trio e sbattere fuori me, ho capito. Stai attento, Andrea. No, non te l'avevano ancora detto. Sì, me l'avevano già detto. The Jumping Clown è il titolo del vostro disco e anche di una vostra canzone. Quale idea ha scaturito questa frase? Beh, diciamo che... allora, anni fa un personaggio noto mi ha quasi fustigato. Dai, c'è Guido che mi fa dei segni strani. C'è un collega che lo ha denominato un pagliaccio che salta. Anzi, guarda, fare l'imitazione, vedete... un pagliaccio che salta. Ecco. E da lì è andato un po' insieme la cosa. Ci è arrivata una base fuori di testa di Dario, del chitarrista. Noi io e Mizzi eravamo a casa, ho chiesto a Dario il permesso di fare ancora di più di quel pezzo lì, cioè di tagliuzzare, mettere insieme dei pezzi vari. Poi Mizzi, che mi aveva raccontato la storia, abbiamo preso la palla al balzo ed è nato. Anche se il testo poi non parla di questa cosa qua, però è scaturita da questa frase, diciamo. Certo. Pensa se fossi stato tu il cantante bassista, non potevate chiamarlo The Jumping Clown, scusami. The Jumping Bassman. Pensa se questa persona ti avrebbe intitolato con qualche altro aggettivo, allora la canzone avrebbe preso tutto. Nel 1982 esce il secondo disco dei Tank, intitolato Power of the Hunter. La band del bassista Eglie Ward alle prese con il brano Budding and Scratching. We'll be right back. Anche se sono passati 28 anni, il sound di band come i Tank è ancora attuale. Cosa ne dite? Beh, io dico che se è rock and roll sarà sempre attuale, voglio dire. Poi ben vengano le contaminazioni e voglio dire il reinventare anche un rock and roll, no? Voglio dire. E poi rimane attuale perché effettivamente si sente l'influenza che hanno avuto su tante altre band. Ascoltando queste vecchie band dici... Ecco dove hanno preso. Da chi hanno preso Iron Maiden? Perciò, piuttosto le che... cose sì, cioè l'evoluzione è naturale. Il bello è questo proprio del rock and roll, che c'è sempre quattro quarti si tratta, diciamo. Però poi. E ci piace così. Sì. Influenze musicali, quali sono e quanto incidono sulla creazione del vostro sound? Beh, vuoi partire tu con le tue influenze musicali? Che io dico sempre i miei due gruppi. Ma a me piace tutta la musica, basta che sia fatta bene, basta. Il primo disco, a 12 anni, il primo concerto che ho visto è stato il tour di A Night at the Opera dei Queen. Basta, i Queen sono il mio grande amore, poi gli altri gruppi dopo, vabbè, Deep Purple lo dirai già tu. Sì. Faith No More lo dirai anche quello, dirai già tu. Esatto. Che cosa vuoi dire adesso? Non puoi Basta, dire non dico più niente, hai già parlato per me, guarda. No, diciamo che i Led Zeppelin, ma a me piacciono molto tipo in King Crimson, tutta la roba prog, ma mi piace anche il pop. Mi piace anche Lady Gaga. Anche il blues, da cui parte tutto, ovviamente. Anche prima parlavo di band, voglio dire, più fortunate o meno fortunate, band che magari nella loro sfortuna sono comunque felici di contaminare le band che poi diventano capostipite. Il discorso che facevi prima, no? Io mi ricordo dei Ten Years After, non so in quanti conoscono i Ten Years After, eppure voglio dire, è un underground di classe. No. La cosa importante per noi è che ognuno ha un po' le sue influenze e il fatto questi i noise machine sono fatti proprio così, che si incastrano queste influenze diverse, anche se qualche cosa intersezione c'è comunque, però arriviamo un po' da quattro zone diverse, diciamo, e la cosa bella è proprio quella, è la macchina del rumore funziona bene proprio per quello. Chiudiamo allora la seconda parte con i Saxon, la band del vocalist Bill Byford, nota per il sonic sound che la contraddistingue, dal disco Strong Arm of the Law del 1980 con la canzone Taking Your Chances. Ci ritroveremo subito dopo la pubblicità quando ascolteremo sei brani del disco dei Noise Machine dal titolo The Jumping Clown. Non mancate!